Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Fratelli Damiano. Dalla Sicilia, frutta secca bio in tutto il mondo. Di Alessandra Tedesco. La storia di questa azienda nasce in Sicilia più di 50 anni fa. È il 1964 quando Pasquale Damiano decide di fondare a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, la Fratelli Damiano, azienda per la trasformazione della frutta secca. Un'azienda familiare che oggi è arrivata alla quarta generazione e che trasforma soprattutto mandorle e nocciole biologiche. Per le mandorle è leader mondiale nel bio. Crea anche preparati per latte vegetale, come il latte di mandorle, o per altri prodotti come le barrette energetiche. Un'azienda passata dai 3 milioni di fatturato ai 45 milioni del 2015, presente in 20 paesi. È Riccardo Damiano, attuale amministratore delegato del gruppo, a raccontarci le origini. Papà, Pasquale Damiano, ha iniziato questa attività nella frutta secca 51 anni fa. Però proviene da una tradizione ben più antica, che era quella del padre, che per 70 anni ha gestito un mulino, degli zii del padre che facevano commercio con le isole Eolie. Adesso sono 150 anni o forse più di attività nel food. Nel 64 a Capo d'Orlando, piccolo centro del nord della Sicilia, rientra papà dalla Germania, aveva studiato là, era stato degli anni ad acquisire esperienza e quindi aveva visto la potenzialità di questi prodotti, soprattutto dei nebrodi. Noi viviamo, Capo d'Orlando si trova sul mare, di fronte, alle spalle ai nebrodi, una delle quattro zone d'Italia dove vengono prodotte le nocciole. E lì pensa appunto di trasformarle e di poterle vendere soprattutto in Germania. Inizia piccolino, piano, come iniziano tutti, insomma. Però nel 76 ha una grande intuizione, quella che è il prodotto biologico, assolutamente naturale, senza prodotti di sintesi, possa avere un grosso sviluppo. E in effetti lo ha in Germania, lo ha in Svizzera, lo ha in Francia, quindi l'azienda incomincia ad esportare dall'inizio ed incomincia a trasformare. Quindi non solo nocciole tale e quali, ma anche la pasta di nocciole, anche i prodotti che servono a fare il gelato, anche i prodotti che servono a fare i biscotti, le farine, le granelle. E da lì uno sviluppo, quindi un'azienda che inizia con, tradotti in euro di oggi, 3-5 milioni di fatturato, e poi si evolve nel tempo aggiungendo prodotti, aggiungendo persone, aggiungendo, diciamo, tutta una serie di esperienze. La prima svolta, come avete sentito, avviene nel 1976, quando parte la prima produzione biologica. Dal 2000 tutta la produzione diventa bio. L'altra svolta significativa per la Fratelli Damiano avviene con il cambio generazionale, quando le nuove leve della famiglia, con uno sguardo imprenditoriale lungimirante, decidono di aumentare i prodotti. Forse il momento importante è stato quello del cambio generazionale. Io sono la seconda generazione in questa azienda. Lì si è formato, diciamo, un'idea diversa di quello che poteva essere il mercato. L'allargamento dei prodotti, sicuramente. Tanta passione, perché c'è una prosecuzione imprenditoriale, quindi l'ingresso dei figli in azienda è un momento importante, lo sarà, spero, anche per me presto, ho già i miei figli che mi seguono. È un progetto interessante di dare un prodotto di alta qualità, quindi con caratteristiche molto particolari, che potesse servire anche all'industria per realizzare il latte di mandorla piuttosto che le barrette energetiche, e che poi potesse andare anche sugli scaffali. Quindi l'allargamento enorme della gamma dei prodotti, che diventano sempre a base di mandorla, ma parliamo già di mandorle al limone, mandorle al tamari, alla salsa di soia, tutti i prodotti ricoperti di cioccolata, le creme spalmabili, che in Francia, in Germania, in Belgio vanno tanto. Tutto questo, quindi l'allargamento della gamma, il team è importante, le persone che stanno dietro, abbiamo oggi un importante ufficio di ricerca e sviluppo, di qualità, un ufficio marketing che ci dà tante soddisfazioni. Ecco, coinvolgere insieme tutto questo poi ci ha portato anche ad altri risultati, anche ad allungare la filiera, alle filiali estere, alla fondazione, insomma, a diverse altre attività che nel tempo sono potute maturare, perché il mood era quello positivo proprio in azienda, che ci faceva star bene tutti, e siamo molto contenti di quello che facciamo. Tra le novità introdotte dalle nuove generazioni di manager e che hanno permesso un aumento notevole di fatturato, c'è la produzione mirata per alcuni clienti. Per noi fa parte della fidelizzazione del cliente. Abbiamo dei clienti industriali, immagini, in America si consumano 20 milioni di barrette energetiche al giorno biologiche, quindi 20 milioni di persone tutti i giorni ne mangiano almeno una, ecco, per fare una media semplice. Chi le produce in realtà ha bisogno di un'ingredientistica molto stabile. Questo prodotto da un giorno all'altro deve avere lo stesso gusto. Allora noi ci siamo specializzati su questo, siamo riusciti a dare al nostro cliente un mix di mandorle piuttosto che di nocciole, di anacardi, tale per cui il prodotto industriale è stabile, quindi ci abbiamo studiato sopra, ci abbiamo lavorato e diamo anche una facilità di produzione al nostro cliente, per questo che ci vuole molto bene, non ci cambia, cresce e continua a utilizzare i nostri prodotti. L'approvvigionamento delle materie prime avviene in due modi. Da una parte la controllata Damiano Agricola possiede tre grandi aree di coltivazione e da qui arriva la maggior parte del prodotto. Altri tipi di frutta secca arrivano invece dall'estero. Il nostro interlocutore è il contadino, il produttore, le cooperative, la Damiano Agricola stessa, cioè il nostro obiettivo è quello di avere 1.000 ettari, è un obiettivo abbastanza ambizioso, però questo ci darebbe una forte stabilità a livello di produzione, di tracciabilità, di filiera. Sono parole che si sentono spesso, noi cerchiamo di riempirle di contenuti. Con i contadini c'è un rapporto che oramai data da tanti tanti anni, prima interloquivano con mio nonno, con mio padre, con me, e spero possano continuare, per loro siamo una certezza, una piccola banca di famiglia. Produttori da tutto il mondo oramai, perché non so, gli anacardi provengono dall'est asiatico, le nocciole sono tutte italiane, le mandorle in gran parte. Si è globalizzata sia la fase di acquisizione che quella di vendita, devo dire, in gran parte tutti i prodotti italiani. La struttura produttiva della Fratelli Damiano si trova in Italia, in Sicilia, ma la Damiano ha anche una filiale in Francia e una negli Stati Uniti, e la maggior parte della produzione va all'estero. La fotografia dell'azienda oggi viene fatta ancora dall'amministratore delegato Riccardo Damiano. Oggi la struttura, detta in numeri, ha 60 persone in Italia e una decina all'estero, nelle filiali francesi e americana. Il prodotto va quasi tutto all'estero, in Italia abbiamo due clienti molto importanti, all'estero in realtà l'85% del prodotto è diretto in 20 paesi, per la maggior parte europei, negli Stati Uniti, ma anche in Australia, anche in Medio Oriente. Con, tra l'altro, tutta la declinazione dei prodotti, quindi il prodotto diretto all'industria, il prodotto che si trova sugli scaffali, il prodotto che va ai forni, ai biscotti, e l'azienda oggi appunto ha 60 persone, 45 sono donne, funziona interamente ad energia solare, è un fatto interessante, siamo molto attenti all'ambiente, abbiamo di recente preso l'ultima certificazione, l'ottava, quella sul carbon footprint, adesso sappiamo esattamente quanto CO2 produce ognuno dei nostri prodotti. Questa è oggi l'azienda in piccoli numeri, oltre a, naturalmente, io non mi stanco di dirlo, alla grande passione e alle persone che ci lavorano dentro. Il marchio Damiano però non viene subito associato dai consumatori italiani alla frutta secca. Questo perché l'azienda lavora soprattutto con marchi terzi, come spiega ancora Riccardo Damiano. La maggior parte dei sacchetti di mandorle tostate, di mandorle naturali, di farine che ci sono a marchio, magari anche di terzi, si trovano nei negozi italiani, in realtà provengono da noi, quindi lavoriamo a marchio terzi. I nostri prodotti in Italia sono distribuiti da Ecor Natura Si, produciamo il marchio Ecor Natura Si nei grandi formati, sono anche la linea bio di Esselunga, è un prodotto Damiano, e all'estero invece questo marchio è abbastanza conosciuto perché si trova in tutto il canale specializzato. Il canale specializzato è quello che si occupa solo di bio, quindi non il supermercato della la grande insegna, ma il canale un po' come rappresentato in Italia da Ecor Natura Si, per darle un ordine di grandezza. E poi verso l'industria invece è B2B, è un business diretto, sono contatti che di solito si fanno in fiera o visitando in maniera mirata e puntuale quelli che possono essere gli utilizzatori, e con questi inizia un lungo lavoro che di solito dura 1, 2 o 3 anni prima di poter iniziare a lavorare per sviluppare esattamente il prodotto che gli serve. In questi 50 anni di vita aziendali ovviamente non sono mancati momenti di difficoltà, anche se la crisi del 2008 ha inciso poco. La crisi è stato un po' meno, devo dire, d'impatto, perché lavorando sull'estero e lavorando sul settore bio e lavorando sul food, probabilmente ecco, siamo tra quelli che l'hanno sentita di meno. Tutti mangiano, è chiaro, i soldi in tasca sono un po' meno, la spesa si riduce, però nel frattempo si allargava il numero dei consumatori, quindi in qualche modo la crisi non ci ha colpito come in altri settori. Penso, non so, all'edilizia, penso a tanti altri settori. Con noi è stata più clemente. Quali strategie dunque per il futuro della Fratelli Damiano? La parola ancora all'amministratore delegato Riccardo Damiano. È un po' complicato perché il prodotto bio è limitato, quindi il numero di chili a nostra disposizione è quello. Allora io il futuro lo immagino di riuscire a piantare di più, molto di più. Quest'anno abbiamo piantato quasi 10.000 alberi. Allora, avere più prodotto a disposizione, quindi tutte azioni verso il prodotto a disposizione, acquisire nuovi terreni, convertire terreni in bio, allargare ecco, la base produttiva. Ci sono alcuni stati che ci interessano, si sta aprendo un mercato in Cina per noi e si tratta solo di una piccola parte naturalmente, come dicevo non possiamo ambire a mercati infiniti, internazionali, ma mercati mirati, spesso mercati che magari apprezzano particolarmente questo prodotto. La fase della trasformazione, quindi dei prodotti a scaffale, è un altro degli obiettivi per il futuro, quindi avere più prodotti ancora, più creme spalmabili. Avremo presto una crema spalmabile solo fondente, avremo una crema spalmabile senza grasso di palma, ecco, quindi l'attenzione alla lista degli ingredienti molto corta, al fatto che quegli ingredienti siano tutti ingredienti di primo ordine. Il nostro fondente è al 72%. Tutta questa attività è il nostro futuro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.